caro amico, tu sei il solo che mi può aiutare. Quel giorno lei mi ha detto adesso basta, mi ha detto anche caro non ti amo più. Lei non vuol tornare più.